con Federica Rocchi del collettivo Amigdala per parlare di Periferico, Festival di Teatro, Danza e Musica a Modena dall'8 al 12 maggio 2019. Federica, ben trovata. Grazie a voi, bentrovati. Raccontaci. Siamo qui nei preparativi per questo festival che giunge alla sua undicesima edizione e che si chiama appunto Periferico. E Periferico è un progetto che lavora su una relazione molto stretta tra le arti performative e gli spazi urbani o non urbani, diciamo interni ed esterni di alcuni quartieri della città. Naturalmente, come dice il titolo stesso del festival, siamo interessati in modo particolare a quei luoghi più marginali, se vogliamo, più nascosti, più invisibili delle nostre città, che rappresentano però dei pezzi dove le persone vivono, dove le persone lavorano, dove si svolgono le vite, insomma, quotidiane delle persone. E Periferico fa questo, cioè porta gli artisti in residenza a vivere in questi luoghi che sono appartamenti privati, fabbriche dismesse, officine artigiane invece ancora in funzione, palestre piuttosto che spazi sociali, scuole, e a vivere lì e a costruire un progetto multidisciplinare, quindi che può spaziare dalla musica al teatro, alle arti visive, che si costruisce proprio in stretta relazione con quel luogo e con le persone che abitano lì. Questa edizione di Periferico in particolare ha scelto, diciamo, la strada di convocare sei figure artistiche che ci interessavano in modo particolare, che sono state chiamate proprio a curare un progetto e una giornata di programmazione interamente. Quindi quello che succederà è che il pubblico in questi 5 giorni può venire e stare insieme proprio ad un artista per tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera, attraversandone in qualche modo la pratica e la pratica di lavoro. Questa è un po' l'estremissima sintesi del progetto. Quanti saranno i lavori ospitati quest'anno? Ma abbiamo circa una quindicina di appuntamenti, più una serie di incontri, di conversazioni, di workshop. Ci sono attività molto diversificate, dalla performance, diciamo, vera e propria, tutta una parte che curerà Enrico Malatesta il 10 di maggio sulla soundscape, quindi sul ruolo anche che il suono ha nell'attraversamento dei paesaggi. C'è una camminata curata da Leonardo De Log e Valerio Sirna attraverso il quartiere che dura 3 ore, che entra all'interno degli spazi e usa gli spazi urbani proprio come spazi di attraversamento. Ci sono delle installazioni, insomma ci sono diversi formati che attraversano proprio questi 5 giorni, e si inizia questa notte in realtà con un'anteprima, il 3 maggio appunto stanotte, nell'ambito di un altro festival modenese che è Trasparente, festival amico di Periferico, nel senso che siamo proprio insomma compagni di viaggio in qualche modo, e questa sera il nostro collettivo interno Amigdala presenta Elementare, che è una notte di canto, una notte intera fino all'alba, quindi fino a domani mattina alle 6, a partire da mezzanotte, e noi canteremo insieme al pubblico che vorrà stare con noi. Quindi i formati sono estremamente diversificati. Come dicevo prima, l'abbiamo chiamato proprio Festival di Pratiche perché quello che si viene a fare è proprio incontrare un modo di lavoro, un modo di lavorare, piuttosto che venire, tra molte virgolette, consumare semplicemente uno spettacolo e poi andarsene a casa. Ecco, cerchiamo di lavorare così, su un allargamento, su una modalità di vivere il festival che è più larga, che ha delle maglie in qualche modo che consentono anche un incontro reale con gli artisti che sono qui ospiti e con la comunità delle persone che abitano in questo luogo, perché appunto Periferico è un progetto che coinvolge proprio moltissimo tutte le persone che abitano qui, le persone che lavorano, c'è una grande partecipazione proprio della piccola comunità del villaggio artigiano di Modena Ovest, che è appunto il luogo in cui siamo situati. Ci racconti anche un po' dell'esperienza del collettivo di cui fai parte, l'Amigdala? Sì, certo, sì, Amigdala Amigdala è un collettivo multidisciplinare che tiene insieme figure che hanno competenze ed esperienze molto diverse, appunto dalla musica alla performance, alla scrittura, all'architettura, alle arti visive, quindi lavoriamo su appunto una modalità molto ibrida di costruzione di progetti performativi, diciamo, che hanno proprio questa vocazione, che è quella che a noi, insomma, ha sempre interessato, di provare a lavorare sui luoghi, cioè i luoghi sono la cosa che ci interessa, che ci spinge, che ci incuriosisce più di tutto. Quindi in questi anni abbiamo attraversato, sia attraverso il festival, sia attraverso i nostri lavori, moltissimi spazi di questa città e anche di altre città, e sono tutti appunto spazi non convenzionali, diciamo, non istituzionali, non teatri, non musei, ma luoghi ibridi, luoghi dove appunto che pensiamo sia interessante portare le persone a riguardare, a rivedere questi luoghi con uno sguardo diverso e forse in qualche modo anche a ricostruire dei legami di affezione, di affetto attraverso l'emozione che il processo artistico può essere in grado di muovere. E, diciamo, ci sembra una strada, in tutti questi anni ci è sembrata una strada utile per così, riaffezionare in qualche modo le persone soprattutto alle periferie, soprattutto ai luoghi che hanno più bisogno, no? Di essere amati anche, di essere curati, insomma. In chiusura, Federica, ci lasci i riferimenti internet? Sì, certo, sì, è il sito del festival è www.perifericofestival.it e c'è anche una pagina Facebook che è appunto sempre periferico e che è, insomma, dà tutti gli aggiornamenti su quello che accade e assolutamente siamo a disposizione per informazioni aggiuntive anche via mail, è info@perifericofestival.it e anche per le prenotazioni, insomma, per qualsiasi informazione siamo qua. Ovviamente sul sito c'è il programma completo di tutta la 5 giorni. Allora, ricordiamo l'11ª edizione del Festival Periferico al Villaggio Artigiano Modena Ovest dall'8 al 12 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Federica Rocchi del collettivo Amigdala, che è una delle curatrici del Festival. Federica, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie infinite.